vero, la Ferrari, grande, grande Vettel, grande la Ferrari, grande tutti. E Valentino e la Ferrari, dai, di solito è una coppia che stanno bene insieme. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Rossi c'è e vince davanti ad Andrea Dovizioso e ad Andrea Iannone, tre italiani sul podio, storica, abbiamo vissuto una leggenda, una doppia leggenda. Yes, great drive. Ferrari è tornata. Fantastico. C'è un grande Seb. Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Grazie mille, ragazzi. Grazie. Dai, forza Ferrari! Come un matto e avevo visto Jorge e le due Ducati che erano già andate via, mi sono ringalluzzito, cioè, quando ho visto Marquez uscire ho detto devo fare presto, e poi ho fatto dei giri velocissimi, sono riuscito a riandarli a prendere, non era facilissimo, e ho detto se li sono andati a prendere probabilmente posso anche vincere. Fratelli d'Italia suona per tutti, in particolar modo per Valentino Rossi, lo rispettiamo in silenzio anche noi, ma con grande gioia. Fondamentalismo patriottico, secondo voi? 800 24 00 24, Giorgio Luca, nostro autore, mi guarda con un sorrisetto, dice, vabbè dai, ci sta, ma sì che ci sta, fondamentalismo patriottico, magari banale, magari stucchevole, ditemi quello che volete voi, mieloso, demagogico, però, ragazzi, allora, 676 giorni per la Ferrari. Ultima tripletta italiana, Motegi 24 settembre 2006 nel Moto Mondiale. Ultima doppietta Rossi-Ferrari 2007. Insomma, erano passati un sacco di anni. E se qualche volta la nazionale di calcio, con le sue fatiche, le sue sofferenze, i suoi patimenti, e la conseguente assenza della Serie A con le sue polemiche di retroguardia con gli arbitri e tutto quanto, qualche volta questa assenza, una volta tanto la domenica, è una benedizione, come ieri. Ieri, giorno profumato di storia per i motori italiani, con l'aggiunta di una spruzzata meravigliosa di ciclismo, perché Valentino ne ha 36, Luca Paolini ne ha 38, uno ha vinto in Qatar, l'altro ha vinto la Gambe Velgem, grande classica del Nord, e vabbè, allora concedetecela questa assenza. So che volete parlare di Conte, poi lo facciamo dopo, più tardi, con Pardo. Intanto torniamo sul Moto Mondiale, perché Valentino Rossi ha vinto, l'abbiamo sentito, ma secondo Dovizioso, terzo Iannone, su una Ducati che ieri su quella pista era la moto più forte. È logico che abbiamo annusato la vittoria, un decimo è davvero poco, ma l'ultimo giro non ne avevo. Avevo più velocità nel rettilineo, ma nei curvoni veloci Valentino aveva più percorrenza, un pochettino più di grip dietro, non riuscivo ad attaccarlo. Primo podio in MotoGP è fantastico, no? Lo sogni da quando inizi in questa categoria, io ci sono riuscito oggi. È il lavoro che abbiamo costruito con i ragazzi della Ducati che mi hanno supportato dal primo anno. Sono stati fantastici con me, adesso sono cresciuto anche grazie a loro, quindi sicuramente devo tanto alla Ducati. Questi erano nell'ordine Dovizioso, Iannone, primo podio appunto in MotoGP, tra l'altro la Ducati è al terzo podio, sappiamo come la Ducati si possa avvalere di un regolamento speciale. Questo terzo podio dall'anno scorso fino ad ora, quello di ieri vale doppio, costeranno 2 litri di benzina in serbatoio in meno, ma Dallini ha detto non è un problema, stiamo andando forte. Allora, grandi rivali battuti, la Mercedes in Malesia, Marquez e Honda in Qatar, altro tema, altro bel tema. Cosa dite voi? 800 24 00 24. Luca scrive: con Marquez col cazzo che avrebbe vinto il tuo amichetto, riferendosi a Valentino Rossi. Beh, ieri Valentino Rossi ha battuto Marquez, il quale ha detto: nessuna sfortuna, ho sbagliato io, ho provato a rimontare, sono arrivato a un certo punto, poi di loro non tenevo il passo. Quindi questa vittoria vale per Rossi, per la Yamaha, vale per le Ducati, quanto la vittoria sulla Ferrari è indicativa e può valere sul passo gara con la Mercedes. Ho citato prima Luca Paolini che ha vinto la Gambe Belgium. Grande, forte, forte vento, poi con asfalto bagnato ancora più pericoloso. Io sono caduto due volte, ho cambiato 3 volte bici, quindi una giornata sotto un punto di vista tecnico sfortunata, ma molto fortunata per il risultato. Questo era Luca Paolini, ciclismo, vittoria nella Gambe Belgium. Ma so che volete parlare di Conte, so che volete parlare di questa pretestuosa polemica con la Juventus. Saranno fischi o non saranno fischi in una Juventus Stadium in cui pare verranno coperti in occasione dell'amichevole gli scudetti della Juventus, perché 31, 32, 33 ancora non si sa bene il conto. So che volete parlare della polemica di Marchisio, io già vi dico che è pretestuosa, l'ho già detto, mi sono stufato di avere un allenatore della nazionale che si fa desiderare più di una top model. Ogni giorno e sono offeso e vi dipeso manco fosse Presidente della Repubblica, forse resto e forse vado. Intanto ogni mese passa l'incasso, i soldi che prende non sono pochi, si fa molto desiderare Antonio Conte. E magari qualche volta, come è successo l'altro giorno, si alza e se ne va. In che modo un giocatore come Marchisio può essere sostituito? Gioca Bertolacci al posto suo, non cambia niente, cambia l'interprete in campo, sicuramente è una grave perdita a Marchisio, ma Bertolacci è un ragazzo giovane, farà bene. Ma per lei è una perdita più importante per la nazionale o per la Juventus, Marchisio? No, vabbè. Parliamo dopo, ragazzi. 800 24 0024, traffico. Traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Tutti convocati. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Tutti convocati. E alla fine la mia moto andava sempre meglio, abbiamo fatto un grande lavoro, le scelte giuste, la mia squadra, Silvano, Matteo, tutti i ragazzi australiani e tutti i ragazzi che mi hanno aiutato, la Yamaha, e dà ancora più gusto perché sembravamo fuori, no? I test, le prove, però la gara è un'altra cosa. La gara è un'altra cosa ed è stata meravigliosa. C'è chi mi scrive, un sacco di messaggi. Vediamo se intervenite, però anche al telefono 800 24 00 24. Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Parlare di Conte nazionale oggi è come andare a letto con la Bellucci e parlare di quando sei stata a cena con Malgioglio, scrive Marco. Allora, adesso le moto, poi Leo Turrini con la Formula 1 e poi dopo le 3 anche il calcio, perché no? Ciao Graziano Rossi. Ciao, buongiorno. Come stai? sto abbastanza bene, piuttosto bene. Era un giorno che stavamo aspettando da tanto, tra la Ferrari, Valentino, tripletta italiana, meglio di così si muore. Sì, è stata una domenica particolarmente fortunata, particolarmente felice, però io sono strafelice perché è la prima volta, dopo tanto tempo Valentino torna a vincere una vittoria. Le vittorie non sono tutte uguali, certo, no? Sono tutte importanti, sono tutte molto dolci, ma ci sono quelle magiche e quelle meno. Questa è una vittoria magica che Valentino non otteneva da un po' di tempo, che vuol dire la competitività assoluta, vuol dire la cattiveria, vuol dire la coordinazione, non sbagliare niente, eccetera. Ed era un po' di tempo che non succedeva, quindi io spero che sia l'inizio di un campionato molto appassionante, che potrebbe, dopo questa prima gara, abbiamo capito che il presupposto di Valentino di voler vincere il decimo mondiale è anche possibile. Perché no? È anche possibile. Sì, è possibile, altro che. Senti Graziano, io mi ricordo, noi parliamo spesso, 2 anni fa, quando Valentino lasciò la Ducati e andò alla Yamaha, tu mi dicesti, quest'anno per lui è come una wild card. Ti ricordi, vero? Sì, sì. Ecco, perfetto. Adesso Valentino che cos'è? Valentino ha fatto un percorso che l'ha portato in 3 anni a questo risultato, a questa vittoria che ti magica dopo tanto tempo. E quindi è stato un cammino abbastanza fortunato per aver incontrato della gente molto competitiva, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano, no? E chiaramente un pilota che ha ancora illimitate possibilità e ancora la stessa voglia, lo stesso gusto, ecco. Sì, senti, ti confesso una sensazione: quando ieri si è arrampicato fino al terzo posto dopo quella rimonta e ha preso un paio di giri di respiro, io ho mandato un messaggio a un mio amico scrivendo vince. Anche tu hai avuto la stessa sensazione? Beh, no, invece io quando lui è uscito dal gruppo più numeroso e si è diretto verso il gruppo dei 3 davanti, a un certo punto ha fatto 3 o 4 giri in un tempo straordinario. Sì. E allora io ho pensato, è possibile, perché io sono un pochino meno ottimista di te, nel senso che essere troppo ottimisti poi significa diventare presuntuosi, nel mio caso, nel tuo no, ma essendo un parente come me significa un po' di presunzione, no? Però ho capito che c'era una buona possibilità di arrivare là davanti, ecco. Senti Graziano, la moto migliore in pista secondo me però ieri era la Ducati, il resto è stato proprio il tuo figliolo. Dunque, la Ducati è stata straordinaria perché alla prima gara 2 moto sul podio, tu capisci che per la Ducati è un risultato straordinario, l'ingegnere Daligni ha fatto un lavoro straordinario, la Ducati quest'anno assolutamente c'è e quindi bisognerà tutti fare i conti anche con loro, naturalmente. Intanto Pedrosa già si arrende, avrai sentito, al braccio destro non riesce a guidare, si ritira, pare che qualcuno vorrebbe Stoner al suo posto, tu ci credi? Ma si ritira, Pedrosa dice che forse potrebbe ritirarsi? Sì, ha detto che non, la pianta qui a tempo indeterminato, perché non riesce più a guidare, sì. E... Ma già dalla prossima gara? Sì, non ce la fa, Accidenti. E tu dici potrebbe tornare Stoner? Qualcuno dice potrebbe tornare Stoner, tu ci credi? Io non lo escludo, visto che Stoner ha diversi cambiamenti di umore, di idee, è una possibilità che potrebbe essere. Chiaramente Stoner piace moltissimo alla Honda, Stoner piace molto a tutti gli appassionati di motociclismo, quindi potrebbe anche tornare. E sinceramente una stagione con delle sfide tra Marquez, Stoner e Valentino mi sembrerebbe una strafigata. Una strafigata, Graziano. Senti, ti faccio parlare con un ascoltatore, poi ti saluto. Mirko Genova, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Cosa vuole dire a Graziano Rossi? Ma io volevo così segnalare niente in particolare, nel senso così sottolineare la grandezza di Valentino, che ancora una volta ha dimostrato che il manico lui ce l'ha sempre. Purtroppo forse non ha avuto sempre la moto negli ultimi anni che rispondeva. E poi la grande esperienza, l'immensa esperienza, che sono fuori classe a quell'età, in quelle condizioni, perché tutti abbiamo avuto la sensazione quando andate a prenderli che andava vinto la sta gara, anche se la Ducati ha dimostrato che sul lungo andava di più, sì, fondamentalmente. Sì. Sì, quindi un grandissimo Valentino, e niente, credo che l'unico dubbio che la prestanza fisica tenga un intero campionato a questi livelli, questo è l'unico dubbio che ho. Facciamo rispondere a Subabbo. Guarda che ti assicuro che quando Valentino molto spesso si allena in moto, con la moto da traversi, è sì, il primo che sale e l'ultimo che scende, e ancora quest'anno credo che la prestanza fisica non ci preoccupi, ma ancora per niente. Altro che Balotelli, Graziano Rossi, grazie. Ciao Graziano, un abbraccio. Grazie, buona giornata, grazie. Ciao. Ciao. Paolo Napoli, buongiorno. Pronto, buongiorno. Salve. Allora, avviso per naviganti, Turrini arriva dopo la borsa che andrà in onda tra 3 minuti. Dica, Paolo. Benissimo, allora a proposito di Formula 1. Sì. Praticamente, anche se io sono un vecchio tifoso del Napoli, comunque seguo da tantissimo tempo la Formula 1. Mi è sembrato molto strano l'ultimo cambio di gomme che hanno fatto alla Mercedes. Sì. Fermo restando che noi siamo tifosissimi nella Ferrari. Sì, è stata una strategia sbagliata, Paolo. La Mercedes si era commesso diversi errori. È uno strano errore di strategia, però. Sì, come, sì. Come se ci fosse qualcuno in squadra che vuole favorire più Rosberg. Ma ieri, per la verità, non hanno favorito neanche Rosberg, perché diversi errori, diversi pasticci sulle gomme li hanno commessi anche con Rosberg, tanto che la sensazione che ho avuto io è che gli abbiano levato la possibilità di, con la strategia, gli abbiano tolto la possibilità di vincere la corsa. Quindi io ho avuto la sensazione contraria. Certamente alla McLaren, cioè alla Mercedes ieri hanno fatto diversi errori, forse si sono un po' rilassati. Toto Wolff ha detto adesso sarà il caso di muoverci con più rapidamente con lo sviluppo della macchina. Quello che ha sinceramente impressionato è stato il passo gara della Ferrari, che ieri non aveva nulla di meno al di là delle strategie rispetto alla Mercedes, e di questo si sono accorti anche loro. Perfettamente d'accordo che la Ferrari avesse un ottimo passo gara, però alla fine mi era sembrato di capire che Hamilton aveva chiesto una gomma a fascia bianca. Sì, adesso aveva tutta l'intenzione di andarlo a prendere, almeno cercare di prendere. Adesso guardi, allora stia collegato con noi, ascolti la radio, facciamo spiegare questo arcano e questi errori di strategia da Leo Turrini dopo la borsa e dopo aver parlato con Raffaello da Spezia. 800 24 00 24 è il numero verde. Buongiorno. Buona giornata. Dica. Io sono anche un ciclista amatoriale, ho avuto il coraggio di cambiare alimentazione, preparazione, cura e concentrazione, e anche la respirazione. Secondo me Rossi e anche Paolini e anche la Ferrari, come se fosse una persona, hanno fatto questo, hanno cambiato l'alimentazione, la preparazione, le motivazioni, e si sono rilanciati. Questa è la parola chiave, l'ultima che ha detto è la parola chiave. L'ultima che ha detto è la parola chiave. Certo. Motivazione è la parola chiave, secondo me. No, cambiare le regole del gioco, la preparazione, l'alimentazione, studiare qualcosa che ci renda competitivi, come ha fatto Rossi con Marquez. Ma ha cambiato anche il modo di guidare. certamente modo di tenere la pista. Allora di questo ne parlavamo già l'anno scorso con Graziano Rossi, cioè la grandezza di Valentino è stata il fatto che ha avuto alla fine l'umiltà di dire: questo va più forte di me, guida in un modo diverso da tutti gli altri, io provo a cambiare il mio stile di guida e ad adattarmi a lui, io che di titoli mondiali ne ho 29, che ho adesso 36 anni, che questo è un ragazzino, mi fa la riga tutte le volte, adesso cambiamo qualcosa, si è allenato come un dannato, è in una forma fisica straordinaria e Graziano Rossi ci ha detto: state tranquilli perché quella durante la stagione non va via e Valentino regge al 100%. E dunque questo a me ha sorpreso in positivo tantissimo, cioè l'abilità e l'umiltà di Rossi di dire: ok, questo è più forte, provo a fare qualcosa per cambiare il mio stile di guida e magari arrivargli vicino. Borsa. Fantastico, anche per l'Italia una roba incredibile, tre italiani davanti, penso che bisogna riandare indietro con me, capire se viaggi, no? Ok. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati, Arca SGR, più valore agli investimenti. Vi presenta... Convocati. Sebastian Vettel ha iniziato l'ultimo giro, eccolo qua, silenzio, alziamo il volume, saliamo in macchina. Ha iniziato l'ultimo giro. Get on top! Il traguardo per Sebastian Vettel, signore e signori, tifosi della Rossa, potete tornare a festeggiare, potete aprire di nuovo lo champagne, perché la Ferrari dopo 676 giorni voi. Wow, così dice Margenè. Io dico piedi a terra e testa bassa. Yes! Sì, ragazzi! Un giorno incredibile per me, per tutta la squadra e sono molto contento. Il personaggio più evocato nelle ultime 24 ore, anzi 30, a Radio 24 attraverso social network, messaggi, mail, qualunque tipo di diavoleria, è Leo Turrini. Eccolo. Buongiorno maestro. Ti stavano aspettando come l'oracolo. Ma io ringrazio tutti i tuoi seguaci, ho già avuto modo di dire che tu sei per la radio italiana oggi quello che Dostoevskij è stato per la grande letteratura, però consentitemi prima le notizie sul traffico. Cioè, allora, da Pero a Corbano hai coda. Visto due Mercedes ferme in coda, scrive coda. Domenico da Udine. Voi starete pensando chissà c'è Raikkonen, no perché Raikkonen anche lui va come una scheggia. Ci sono due Mercedes cabrio, una è quella del nero che è Hamilton, l'altra è quella del biondino che è Rosberg, perché hanno sbagliato a cambiare le gomme. Ma soprattutto, chi vi sta bloccando sulla rotta da Pero a Corbano? Chi? Fernando Alonso, io ve lo devo dire, perché Fernando Alonso giovedì, esaltato da Carlo Genta, Radio 24, ha detto: sono felicissimo della scelta da me fatta, non potevo restare in Ferrari dove mi offrivano solo piazzamenti, dovevo indirizzare il mio talento altrove. Allora, eccoci qua, oggi è il 30 marzo, Alonso è arrivato ultimo, dove doveva vincere con la McLaren Honda, e noi abbiamo questo ragazzo Seb Vettel, meraviglioso. Avete fatto bene a far sentire l'audio. Voglio dire una cosa, Vettel parla italiano meglio di Pardo. Io non so se a Radio 24 si possa dire, ma se avete coraggio mandatevi in onda. Vettel possiede congiuntivo e condizionale meglio del nostro amico Pardo, diciamolo. Diciamolo pure. Ma diciamo, posso parlare di veramente oggi? Ma puoi dire quello che vuoi, non ti censuriamo mai. Allora, ragazzi, voglio dire, io sapete che vado in onda anche su Sky, no? Sì. Ma Masterchef ammetterebbero mai tagliatelle e birra nel menù dei concorrenti? No! E invece, in Formula 1, in pista, ragazzi, ricordatevi di Schumi. Sì. Le tagliatelle con la birra sono perfette. Sono perfette. Questo Vettel è un sogno. Scusate, mi piacciono tantissimo. No, ma no, devo dirti, caro Genta, tu che mi ricordi Orson Welles, i marziani che arrivo, perché tu veramente hai reinventato la radio in Italia. Genta, io ti devo dire, ma questo Vettel è commovente. Cioè, adesso, al di là del risultato, tutti dicono: ah, per forza ha vinto, no? Ma l'avete visto ieri dopo il traguardo, questo qui? Sì, sì. Questo ha la felicità di un bambino. Di un bambino, dello studente modello, dai. Ma veramente, io ieri lo guardavo insieme al mio amico, collega, maestro Fabio Tavelli lì a Sky, e dicevo: ma questo qui, ma quando ho già visto sta scena? E era mia figlia all'asilo quando le portavi un cono gelato. È bellissimo questo, guardate. Il mondiale ve lo dico serenamente, sulla Pero Corbano e anche sulla Salerno Reggio Calabria lo vince Hamilton. Sì. Non facciamoci nessuna illusione. No, però Leo. Però la domenica di ieri è stata indimenticabile, caro Genta, io ti voglio bene. Genta, tu sei veramente, come posso dire, qualche cosa. Sei oltre, gente, hai capito? Sei proprio bravo. Poi dopo, se mi spieghi cosa ci fa World Metapista del basket italiano, perché sì, poi sono un po' perso. Ecco. Beh, ci fa che viene qui, si fa un'esperienza e soprattutto da una gran bella lustrata a un mondo che ha bisogno di... Ah, aspetta, scusa, mi è arrivato adesso un messaggio di Raikkonen. Sì. Posso leggertelo? Sì. Che dice: anche il mio congiuntivo in italiano è migliore è di quello male. Di Pardo è, mica è migliore di quello di Pardo. Ditelo a Pardo. Io vedo, questo viene da Kimi, che ha fatto un garone. Kimi ha fatto un garone dopo ma essere stato un giro, no Pardo. No, ma guarda, io ne voglio parlare con te, perché sai che tra i tanti tratti comuni che abbiamo io e te c'è questa passione per Iodka il guerriero, che il giorno prima era stato però redarguito da Mr. Arrival. Posso parlarti anche di Iron Maurin? Sì. Tu sai chi è Iron Maurin? Chi è? È un nuovo fumetto della Marvel, sì, dedicato a Maurizio Arriva Bene. Ah. Iron Maurin. Perché quando tu vedi Arriva Bene, no? Sì. Che io l'ho anche detto, insomma, arriva bene chi arriva primo, no? E quindi ci siamo. Però capisci che questo soggetto brescianissimo, uno che viene dalla cultura della Mille Miglia, andava a vedere le curve della Mille Miglia che suo papà gli raccontava come nuvolare era passato di lì, eccetera, ha restituito il DNA alla Ferrari. Guardate, questo arriva bene, io lo conosco da oltre un quarto di secolo. È matto come un cavallo, quindi capirete che va d'accordissimo con me, ma è perfetto per il ruolo. Perché è uno che è arrivato in Ferrari e ha detto: noi dobbiamo ritrovare la mentalità vincente, dobbiamo pensare sempre in grande. E ti faccio un esempio, carissimo gente, Dostoevsky della modulazione di frequenza. Ieri, quando c'è stata la safety car, eccetera, no? Tutti sono andati a cambiare le gomme, comprese le due Mercedes. Sì. Non c'è andato solo Vettel, perché in Ferrari, con la filosofia di Arriva Bene, di James Allison, che è il direttore tecnico, di nuovo ragionano in una logica di grandezza. Hanno detto: no, possiamo provare a vincere. Seb a consumare meno le gomme è fantastico, lo lasciamo fuori, perché non pensiamo dobbiamo arrivare terzi. Sì, proviamo sì, a arrivare primi, hai capito? Come diceva a suo tempo Dino Zandegu, che era a scuola con me quando vinceva una tappa del Giro d'Italia allo sprint: mamma, sono contento di essere arrivato uno. Sì. No? Ieri, come avrebbe detto Pardo da sotto il casco al posto di Vettel, Vettel è stato contento di essere arrivato uno, perché ha ragionato con tutta la squadra, con tutta la Ferrari, sull'ipotesi della vittoria. Questa è la vera rivoluzione, che la rassegnazione non abita più a Maranello. Guarda, oggi ti sto dicendo delle cose liriche, caro Genta, perdonami. Beh, Leo, se non lo facciamo oggi. Lo faccio per te, Genta. Se non lo facciamo oggi, a parte che c'è chi scrive, vero che Alonso vedendo vincere Vettel ha detto I'm feeling like Antonio Conte, non credo, non so se sia. No, io penso che a proposito di Fernando, probabilmente ha di nuovo perso la memoria. Perché quando ieri ha visto, l'avrà vista, questa scena di Vettel che vince con la Ferrari, che esterna questa felicità bambinesca, ecco, forse Alonso si sarà chiesto nel fondo dell'anima, ma che cosa ho fatto? Io sai che per il pilota Alonso un grandissimo rispetto, anche... per l'amor di Dio. Però insomma lui è uscito da Maranello dicendo io sono sprecato in un contesto come questo, non adeguato alle mie qualità. Sembra quasi Ibrahimovic, quando cambia squadra è la squadra che lascia vincere la Champions League. Siamo al secondo Gran Premio della stagione e Vettel l'ha già vinto. Tra l'altro, carissimo maestro Genta, il paradiso non sembra neanche così lontano. Il paradiso è le quattro vittorie. Schumi, che era Schumi, io non voglio fare paragoni. Anche perché ero con lui sempre e ho, devo dire, una memoria fantastica di anni irripetibili con un personaggio unico, quindi Dio me ne scampi, non voglio fare paragoni, però Michelone per arrivare alla prima vittoria in Ferrari ebbe bisogno di 5 gare nel 1996, Seb ce l'ha fatta la seconda. Ragazzi, tagliatelle e birra, non vi ammettono a Masterchef, ma tranquilli che in Formula 1 funziona. Lanciami il traffico, Leo. Allora adesso attenzione sul traffico. Salerno, Reggio Calabria, abbiamo già parlato prima di Alonso bloccato. C'è anche l'avvocato Montezemolo, tristissimo, perché Marchionne ha accorciato le distanze. Montezemolo ha vinto 112 Gran Premi in Formula 1, Marchionne 1. Però è partito l'inseguimento. È partito l'inseguimento. Ducato Bianco, che il gruppo Fiat Chrysler ha lasciato in dote l'avvocato Montezemolo, si è piallato completamente all'altezza della Locride. Quindi se siete in fila lì dopo Vibo Valencia, Pomezia, Lamezia, quel cavolo che è, abbiate pazienza, Montezemolo che usa il ciuffo come tergicristallo, perché sulla sua macchina del gruppo Fiat Chrysler il tergicristallo non va. Allora quindi, sentiamo se tutto questo è vero? Sì, sentiamo. Sentiamo. Grande gara di tutti e due i piloti, devo dire, grande squadra e grande lavoro della gente di Maranello, cioè non... Non ci sono vincitori individuali, c'è tutta una squadra che si muove e questa macchina non ha un papà, due o tre, ne ha 1300. Tutti convocati. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta... Convocati. Ed eccoci ancora con Leo Turrini. Adesso ti faccio parlare un po' con gli ascoltatori, Leo. Però prima mi deve. Che mi è arrivato un altro messaggio di Raikkonen. Posso leggerlo? Sempre lui, sì. No, vuoi sapere come sta Marchisio? Perché questa roba, mentre noi vinciamo, battiamo la Mercedes, voi te la state a menare. Ma come sta Marchisio? Dateci questa news, come sta? No, più che altro il legamento rotto è rotto come il motore della Honda di Alonso o è sanissimo? Come la Power Unit della Ferrari? Nell'uno, nell'altro probabilmente non si sa, non sta benissimo. Più che altro io mi sono rotto le scatole di un allenatore che si fa desiderare come Monica Bellucci, Antonio Conte. Ma forse resto, però mi sento vilipeso, offeso. Forse resto e forse no, sì. Sì, però poi, voglio dire, qui stiamo tutti facendo un gran cinema, sto roba, Marchisio, la Juve, sì, Conte. Ma Conte dovrebbe semplicemente pensare all'uomo che è là fermo sulla Salerno-Reggio Calabria e deve usare il ciuffo al posto del tergicristallo. L'avvocato Montezemolo cosa disse quando gli tolsero la Ferrari? La famiglia Agnelli non sa il significato della parola gratitudine. Quindi Conte, basta che rifletta su questa frase e tutta la discussione è già finita lì. Tutti è così, sì, sono sì. Così poi sì. Uno può giudicare come vuole, ma questa è la verità. Senti Leo, mi spieghi prima degli ascoltatori, sono Vito da Matera e Massimo da Varese, state lì, mi spieghi da dove esce il passo gara della Ferrari, che poi Hamilton vince il mondiale, lo sappiamo, eccetera eccetera, Però il passo gara della Ferrari, visto le prime due gare, non mi sembra tanto lontano da quello del Moro e del Biondino, eh? Sì, però parliamo di ieri, perché comunque in Australia la Mercedes hanno preso 30 secondi, sì. Allora, ieri la Ferrari ha valorizzato al massimo quella che è una qualità della SF15T, e cioè il consumare meno le gomme. I Mercedes ci sono rimasti male, perché lo dicevamo prima della pubblicità, loro hanno fatto una strategia mandando Hamilton e Rosberg con la safety car a sostituire pneumatici, eccetera, perché non credevano che Vettel e anche Raikkonen, che purtroppo era dietro, potessero essere così veloci facendo una sosta in meno. Allora, questa è la spiegazione tecnica del risultato. In questo momento, soprattutto quando fa molto caldo, come ieri in Malesia, la Ferrari usura meno le gomme. Sì, poi sì, onestamente sì. Da un punto di vista di prestazione pura assoluta rimangono davanti Crucchi, eh? Sì, cioè, sì, se, sì. Ieri Hamilton, non dico tutte e due, Hamilton fa la stessa scelta di Vettel, cioè va a cambiare la gomma quando entra, cioè non va, scusami, a cambiare la gomma quando entra il safety car, probabilmente il nero arriva primo e Seb secondo, eh? Sì. Sì, però sì. Diciamo che in certe circostanze la Ferrari può essere anche più competitiva di Mercedes, però ad esempio andiamo in Cina fra 10 giorni e lì purtroppo lo smog, i comunisti, per queste cose maledette, come direbbe Marchionne, lì non farà così caldo, eh. È Vito. Sempre colpa dei comunisti, sempre colpa dei comunisti, dice Marchionne. Vito Matera, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. Senta, io facevo una riflessione. È un po' di tempo che vedo i Gran Premi e sinceramente è difficile rimanere svegli perché sono di una monotonia assurda. Ieri è stato bellissimo. Escluso quello di ieri perché ci ha visti i protagonisti, però se avesse vinto Hamilton molto probabilmente dopo il decimo giro sarebbe andato a dormire. Ma volevo dire, ma perché non si ritorna, cioè in tutte le gare che vedo, moto, macchine, moto, maratone, corse di bici, di tutto, cioè si parte e ci si arriva. Invece qui con la Formula 1, se uno esce per andare in bagno o va a prendere qualcosa da un'altra stanza, quando ritorna non sa chi è primo, chi deve fare il pit stop, chi non lo deve fare, quando ci perde uno, cioè non si sa mai chi è veramente primo. Si dà benzina, gomme e motore e vai, chi è più forte, chi c'ha più manico vince. Ma ormai penso che quei tempi siano serenamente deceduti, i tempi in cui ci si fermava a cambiare le gomme solo quando pioveva e si mettevano quelle scolpite. Ormai queste strategie fanno ampiamente parte del gioco, no Leo? Beh, sai, quello che diceva Vito non è sbagliato, eh? Una volta l'ingegnere Mauro Forghieri, che è la memoria storica della Formula 1, il papà della rossa di Villeneuve, di Lauda, eccetera, mi disse: sì, ma sarebbe bello anche oggi poter giudicare un pilota dalla partenza all'arrivo con il pieno, senza rifornimento, con le stesse gomme, perché allora, cioè ai tempi di Nicky, James Hunt, eccetera, il film Rush e così via, davvero potevi valutare il talento di un driver, capire come rendeva con la gomma fresca, come se la cavava con la macchina consumata dopo 200 km. Però hai detto bene anche tu, c'è stata una evoluzione, o se qualcuno preferisce involuzione filosofica generale, per cui oggi i Gran Premi sono diventati praticamente delle mini gare di 10, 15, 20 giri alla volta, cambi le gomme, adesso i rifornimenti li hanno tolti, certo. Ma per dire Schumi, che è stato più grande di tutti secondo me con Ayrton, no? Vinceva le corse perché in quella formula lì, e c'era anche il rifornimento di benzina, quindi potevi fare dei tratti di gara con la macchina leggerissima, quasi vuota nel serbatoio, era irresistibile. Bisognerebbe ripensare tutto per dare ragione a Vito, però io voglio dire una cosa a Vito, insomma siamo italiani e tutti me la menate da una via, io non ce la faccio, ah la Formula noia, ah che noia, che bello invece quando Pardo commenta Lazio Trapani, no? Trapani, ma scusate, ma ieri vi siete annoiati quando gli ultimi giri Vettel era davanti? Ma no, ma secondo me al di là della bandiera, allora, per me è stato bellissimo, dire, è stata una corsa bellissima. Però cosa vuol dire? Che se c'è di mezzo la nostra passione, e parlando d'Italia e la Ferrari, la Formula 1 anche in questa versione che io come Vito non condivido al 100% è però affascinante, hai capito? Cioè, alla fine poi a noi piace quello che ci coinvolge emotivamente, cioè perché io ascolto sempre Radio 24 e Genta? Perché sento Genta, compardo e dico, ma questi mi ricordano Scola e Fellini, hai capito? La sceneggiatura, dove ci eravamo tanto amati, e io mi fermo qui perché siete bravi, avete il talento, mi colpite al cuore, e la Ferrari ci colpisce al cuore. Grazie Leo. No, grazie a te. Grazie come sempre Leo Turrini, senza di te non sarebbe lo stesso. Chiudo con Massimo, provincia di Varese al volo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Innanzitutto volevo ringraziare Radio 24 per l'opportunità, perché diciamo sono molto incazzato, sì, con tutti quelli che ce l'hanno con Kimi Raikkonen. Ah. Io sono, premetto, io sono un suo grande stimatore, secondo me è ancora un grande pilota, certo, però non riesco a capire perché ogni volta che va male qualcosa, cominciando dai giornalisti Rai, perché veramente sono faziosi in una maniera scandalosa, c'era Alonso, solo Alonso, adesso c'è Vettel, grandissimo Vettel, per carità, non voglio mettere in dubbio, però non è possibile che anche quando non ha la colpa gli devono sempre dare la colpa. Anche ieri ha fatto una gara secondo me eccezionale nonostante la sfortuna. Ieri Raikkonen ha fatto una gara che secondo me, se non vale quella di Vettel, va molto vicina alla gara di Vettel, perché ieri Raikkonen, che pure secondo me è un fuori classe, ha fatto una gara meravigliosa. Ci sentiamo, grazie Massimo, subito dopo il GR arriverà anche Pardo. 800240024 il numero verde. Un giorno incredibile per me, per tutta la squadra, e sono molto contento. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Convocati. L'unica cosa che chiedo è che mi chiedesse lasciato in pace a lavorare, ecco. Sono stato chiamato in nazione per lavorare e mi si lasci lavorare, ecco, in maniera serena, poi saranno i risultati positivi, meno positivi, ecco, però non subito le affermazioni, ecco, quello non scivola. Poi io sono uno che ha la memoria d'elefante. Che modo un giocatore come Marchisio può essere sostituito? Gioca Bertolaccio al posto suo, non cambia niente, cambia l'interprete in campo, sicuramente è una grave perdita Marchisio, ma Bertolaccio è un ragazzo giovane e farà bene. Ma per lei è una perdita più importante per la nazionale o per la Juventus Marchisio? No, vabbè. Io gli sono stato vicino ieri sera con il comunicato, questa mattina sono stato un bel po' di tempo con lui. Se devo dire che è sereno, non è sereno, e questo non ci fa piacere. Ed ecco che è arrivato Pierluigi Pardo, che è a Lisbona. Ciao Pier. Sì, devo rispondere alla vile provocazione del signor Currini, sull'asse prata, spero apprezzato questa frase. Anche per una volta, no, io sono effettivamente felicissimo, è stata una bella, meravigliosa. Però insomma, spesso, ultimamente, soprattutto la Formula 1 ci fa partire le ricche tecniche, per cui speriamo che continui a regalarci queste emozioni. Sì, è anche il moto mondiale, è anche il moto mondiale. Assolutamente. Senti, c'è meraviglioso. Collegato con noi Gianni De Biasi. Ciao Gianni. Ciao, grazie. Ti faccio dare qualche consiglio da Pardo, che ieri era al Daluz. Qualche dritta, era al Daluz a vedere la vittoria del Portogallo nel tuo girone, un girone in cui Gianni sei adesso secondo, è agganciato la Danimarca dopo questa vittoria sull'Armenia ieri in rimonta 2-1, mentre Pardo ha visto la Serbia eliminata praticamente. Sì, ho studiato questa, ma la prima curiosità, vabbè, magari è molto marginale, è sulla Serbia, cioè, a me sembra che la Serbia, al di là dei problemi che avete avuto, sappiamo secondo me anche dell'ingiustizia comunque che c'è stata, perché voi che abbiate perso quella partita non si capisce perché, ecco, però quello che non capisco, mi sembra una squadra con degli interpreti discreti, mentre intanto qua si è portato a strozzare sull'auto, classico della tradizione portoghese, dico posto, voglio assicurare i parenti, no, la Serbia avrebbe giocatori di buon livello, perché è una squadra così stabile? Una bella domanda, Pierre. Io credo che la Serbia sia a livello tecnico forse la squadra più forte del girone, addirittura, credo, a livello individuale. Probabilmente c'è una mancanza di uno spirito comune che lega questi giocatori. È difficile dall'esterno dare una spiegazione che sia logica e veritiera. Io credo comunque che loro abbiano una qualità, specialmente difesa a centrocampo, veramente molto molto alta. Gianni, davanti dipendono un po' dall'estero dei vari giocatori del momento, non so, Djorkovic o chi altro lì davanti, che possono sicuramente creare dei problemi. E mi riallaccio a quello che dicevi tu, non so neanche io come abbiamo fatto a perdere quella partita lì a tavolino, perché è l'unica partita che noi abbiamo perso, perché siamo imbattuti in questo girone, siamo una squadra che ha fatto 3 partite, 2 le ha vinte e 1 l'ha pareggiata, e ha perso a tavolino una partita che stava pareggiando e stava provando a vincere. E io credo che questo sia veramente un'ingiustizia, perché noi forse abbiamo avuto il torto di rimanere in piedi e di contrastare quelli che entravano a picchiarci. Se ci fossimo buttati per terra saremmo andati negli spogliatoi e avremmo praticamente poi chiesto le sostituzioni, probabilmente in maniera truffaldina avremmo vinto. Però io credo che i signori che hanno giudicato, e qui sicuramente la UEFA ha una grossa responsabilità, non hanno giudicato i fatti per come sono accaduti, ok? Io credo che la Dania abbia subito un grandissimo danno, un grandissimo torto, perché noi siamo rimasti in campo, siamo andati poi negli spogliatoi, è entrato il delegato UEFA e abbiamo fatto vedere le condizioni dei nostri giocatori picchiati, sì, nonostante la difesa, non d'ufficio, ma con i pugni e con i calci nei confronti di chi ci aggrediva. Io credo che se avessimo messo, non so, le mani incrociate, probabilmente avremmo vinto, ma non mi sembra nella logica delle cose. Sì, però resta il fatto, Gianni, che adesso siete praticamente secondi in classifica, stessi punti della Danimarca, è comunque un episodio che anche per quello che state facendo dal punto di vista della classifica pesa tantissimo. Oh, pesa tantissimo, anche perché ci è andata la partita persa 3-0 a tavolino, certo. È una cosa allucinante secondo me. Pierluigi, volevi dire? No, sono d'accordissimo, di giocare tutto a settembre in due partite con Danimarca e Portogallo. Io ieri ho visto il solito Portogallo, insomma, con delle qualità straordinarie, ovviamente, di Cristiano, soprattutto con un'abitudine, diciamo, allo strumento, no? al ricamo più che alla concretezza, con una difesa anziana, anche se poi ieri Carvalho comunque è stato protagonista del gioco 2-0. Non ho visto la squadra perfetta, onestamente, insomma, voi ci avete già vinto, giocate in casa, insomma, qui giocate tutto. Mi racconti un po' l'atmosfera che c'è in Albania, cioè se c'è il giusto livello di eccitazione, di adrenalina, perché state già facendo la storia, insomma, sappiamo che l'allargamento a 24 squadre un po' aiuta, sì, ma la possibilità di arrivare è concreta, arrivare alla fase finale sarebbe una roba... Quanto ci credete, Gianni? Quanto ci credono i tuoi giocatori? Ma noi più che credere ci proviamo a cullare questo sogno fino a quando la matematica non ci dice delle cose diverse, però finora abbiamo fatto, secondo me, con umiltà e con una buona qualità dei nostri ragazzi, abbiamo fatto delle cose interessanti. Il problema è che c'è il pericolo magari di volare quando non è ancora il momento, e noi dobbiamo cercare invece di essere con i piedi ben piantati per terra, consapevoli che siamo solo a metà del cammino e che le altre quattro partite sono quelle che cambiano completamente il nostro futuro. Questo è l'aspetto principale. Certo che magari qualche giocatore in futuro farà scelte diverse, perché tu il problema degli orrondi ce l'ha al contrario, immaginati Berami, Shaqiri, Nusai, eccetera eccetera. Esatto. Il problema è il contrario, no? Rispetto ad esempio all'Italia. Sì, noi abbiamo un altro problema, però ultimamente vedo che ci sono sempre più segnali di avvicinamento di molti giocatori che sono in federazioni diverse per ritornare all'Ovile, specialmente quelli che non sono chiamati dalle nazionali maggiori, che hanno già giocato, quindi c'è grossa attenzione adesso, perché sai, giocarti magari ipoteticamente un europeo diventa importante per qualsiasi calciatore, non è che lo giocano tutti. Certo. Senti, un'ultima cosa, il momento della nazionale italiana, le polemiche continuano ad accompagnarla, Conte che è stufo, non è stufo, forse resto, forse vado, è il caso Marchisio e non possiamo fare senza queste cose. Domanda al contrario, ma quando non ci sono state polemiche con la nazionale italiana? Ricordo che le polemiche hanno accompagnato il mondiale in Spagna nell'82, io credo che abbiano fatto bene, chiudersi a riccio e cercare di fare un corpo unico ci ha dato la molla per andare avanti, anche se magari non eravamo la miglior nazionale di tutto in quel momento lì, ma lo abbiamo dimostrato vincendo le partite decisive. Io credo che Conte abbia la pressione che hanno avuto tutti gli altri suoi predecessori, quando sei a capo di una nazionale la vita è completamente diversa. Uno, perché hai pochi contatti con i tuoi giocatori, vorresti averlo di più, lui si sta battendo per questo, però i club ovviamente hanno la meglio da questo punto di vista. Pierluigi, vuoi chiedere ancora qualcosa, Gianni? No, questo è nel senso, io sono convinto sul fatto che la pressione c'è sempre stata e c'è, e in questo forse Conte anche tante. Non ti sento, ho perso. Prova a richiamarti che t'ho perso. Intanto saluto, proviamo a ripristinare il collegamento col Portogallo e con Pardo. Saluto Gianni De Biasi, ciao Gianni, grazie, in bocca al lupo. Ciao Carlo, saluto ciao. Tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao a tutti. Abbiamo ascoltatore in linea 800 24 00 24, il numero verde. Angelo, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Chiamo esattamente da Sassuolo. Niente, Volevo mettermi nei panni di Antonio Conte. Sì. Che io, se fossi stato in lui, avrei mandato tutti i giocatori della Juve a casa. Sì. E avrei fatto senza. E poi per vedere se i giocatori sono contenti di non essere chiamati in nazionali. E così stanno con la loro società che li paga profumatamente. Potrebbe sembrare una ripicca, però, Angelo. Cioè, non dico, per questioni grosso modo personali, non fai gli interessi di un club, cioè di una squadra che sei pagato per allenare. No. Si sta parlando adesso dei giocatori della Juve perché le critiche sono nate dal club Juve, sì. Però farei così con tutti i giocatori, con tutte le squadre che si lamentano, veramente, saranno anche scelte impopolari, faranno la nazionale e la nazionale, tutti i giocatori incominciano a giocare a calcio non per giocare nella Juve, per arrivare in nazionale, sì. Perciò non si può sempre critiche, io non sono vecchissimo, non neanche tanto giovane, però mi ricordo che Riva si è fatto male seriamente in nazionale. Certo. Però era gente che dava l'anima alla nazionale. E anche buona parte della carriera, come appunto ha fatto Gigi Riva. È tornato Pierluigi. Pier, ci sei? Io vi sentivo, volevo coinvolgere anche il mio. Io vi sento, però. Non è pronto? Io ti sento. Adesso provo a sentire. No, io sono sempre sentito tutto, però evidentemente non davvero. No, ti volevo dire che quello che volevo anche chiedere al mister è, va benissimo la pressione, lo sappiamo che la pressione c'è in ogni nazionale, in ogni momento, però mi sembra che qui è sbagliato il presupposto, cioè qui si accusa Conte di allenare troppo la squadra. Conte bisogna... Beh, ma questo è abbastanza pretestuoso, cioè mi sembra l'oggetto del contenere in questo caso è pretestuoso, no? La novità assoluta è questa, è come se oggi ho fatto male Gervinho, la Roma mettesse sotto accusa, non lo so, ma aprisse un caso diplomatico con la Costa d'Avorio. Cioè qui la pressione c'è sempre e Conte deve sentirsi sotto pressione, ma deve sentirsi sotto pressione perché in Bulgaria non abbiamo giocato troppo bene. Non deve sentirsi sotto pressione per delle polemiche legate al fatto che allena troppo i giocatori, perché quello è il suo lavoro. Lui non... Abbiamo una personalità dominante oggi a capo del settore tecnico della nazionale, sia dal punto di vista della forma che dal punto di vista della sostanza. Abbiamo uno che combatte minuto per minuto per avere gli stage, per avere i giocatori, per allenarli, per avere i livelli di intensità di un club. E quindi c'è, però dal punto di vista di tifosi della nazionale dovremmo essere felici di questa roba qui. Poi è ovvio che l'incidente, l'imprevisto può capitare. L'esempio che faceva l'ascoltatore su Riva è chiarissimo ed è vero. Cioè, è ovvio che gli interessi possono andare. Però Pier, mi sembra che qui ci sia in ballo un discorso personale con la Juventus. Non è questione. Appunto, ti ripeto, appunto. A me sembra l'oggetto del contendere, a me continua a sembrare molto pretestuoso. E il discorso appunto, è che c'è una questione personale tra l'allenatore della nazionale e il suo ex club. E vengono fuori queste cose, quindi non è, a me sembra una balla quella dell'allenarsi troppo, due sedute che poi non è vero, cioè non Marchisio si è fatto male nel modo che conosciamo, la vicenda mi sembra pretestuosa. Poi c'è anche da dire che sono stati molto bravi, però evidentemente è una posizione di imbarazzo quella degli juventini, da Buffon a Barzagli a tutti gli altri che si trovano tra due fuochi. Ma sì, però voglio dirti che qualsiasi giocatore, come diceva l'ascoltatore, vuole vincere col club e vuole vincere con la nazionale. In nazionale il problema sarebbe se noi non avessimo un allenatore bravo. E invece l'allenatore bravo ce l'abbiamo e l'ha dimostrato negli anni di Juve. Questo allenatore bravo adesso allena la nazionale, ha voglia di tirar fuori il massimo dell'intensità possibile dai suoi giocatori e combatte per questo. Io da italiano sono felice di questa roba qua, francamente. Poi è ovvio che nel momento nel quale sparge la voce che Marchisio sta fuori 6 mesi come sembrava all'inizio, quello è ovvio che sarebbe stata una disgrazia mostruosa per lui e per la nazionale, ma soprattutto per la Juve, così come leggo appunto di Gervinho. Adesso probabilmente non è un infortunio così grave, però è ovvio che è un giocatore in questo momento che alla Roma fa bene e che può, comunque che può essere una risorsa. Lo stesso se facesse male, non faccio nomi, se no poi se qualcuno porti sfiga, però voglio dire, i giocatori importanti vanno in nazionale e rischiano di farsi male. Fa parte del gioco, ci sono anche delle assicurazioni che poi alla fine chiaramente non ti rimborsano del danno dal punto di vista tecnico. Questo vale per tutto il mondo. Diverso è valutare Conte per quello che vediamo in nazionale. Allora, qui si può discutere, perché l'Italia vista con la Bulgaria a me non è piaciuto molto, e questo lo si può dire, lo sa anche lui, sicuramente non sarà troppo soddisfatto della prestazione. Abbiamo una partita adesso importante con la Croazia, che se dovessimo perdere ci metterebbe in qualche modo in una posizione un po' più difficile, però poi adesso voglio dire, leggi le classifiche dei vari raggruppamenti, ne parlavamo anche ieri, abbiamo un'Olanda che è terza dietro all'Islanda oltre che alla Repubblica Ceca, il Belgio che sta facendo fatica ed è dietro Israele che è secondo, la Spagna non sta brillando, la Germania è terza in questo momento, ha perso in Polonia. Secondo me anche la formula, perché l'Europeo ha 24 squadre, con le prime due di edizione che si qualificano, la migliore terza e quattro attraverso il playoff praticamente garantisce. Fai disastri, ecco. E questo secondo me in qualche modo ha inciso anche sull'approccio che le nazionali più importanti hanno avuto verso il girone. Nel senso, ci sono prese qualche licenza in più, la vivono con un pochino più di serenità, consapevoli che poi tanto le cose si sistemano. Qualche situazione insidiosa c'è, per esempio la Turchia mi sembra fuori dai giochi, la Russia quasi potrebbe faticare, la Serbia è fuori, la Germania non è in fuga come succedeva sempre in tutte le qualificazioni della storia del calcio, quindi anche noi insomma siamo secondi con la Norvegia che abbiamo fatto fricata. Insomma, qualche rischio potremmo avercelo anche noi di non arrivare fra le prime due, anche se penso che insomma ce la faremo. E quindi questo però fa parte di questo nuovo regolamento, certo, di questa nuova formula di Europea 24, che secondo me rischia di essere anche un po' eccessivo. A me piaceva molto l'Europea 16, anche a me, anche a un me. Livello di equilibrio mostruoso, no, una grandissima qualità. Certe volte l'Europeo ha avuto un livello qualitativo superiore al mondiale, almeno nella prima fase. Nicolas, sì. Parma, buongiorno. Buongiorno e grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Prima volevo dire una cosa appunto sulla soap opera ormai tra Conte e la Juve. Io volevo dire una cosa, sono d'accordo con lei, dottor Genta, quando dice che è un pretesto, secondo me, tutto questo litigate, le tracciatine e via discorrendo. Ma vorrei dire una cosa, anche non è che tutto questo, quindi le tracciatine con la Juve, il fatto che poi Conte è lo stage, che non ce l'ha, le parole di Tarecchio che dice che non è sereno, non è che porta un addio di Conte con la prospettiva Milan dietro la finestra. Mi spiego, quando ormai continua a volere e a non tenere Conte e c'è la possibilità che qua in aprile al Milan vengono nuovi soci, quelli in minoranza, porterebbero soldi che potrebbe, ma diciamo questo, così. Questa è un'ipotesi che abbiamo già sentito in mille modi e diverse volte. Può anche essere quello che dico io, e che a me non piace è questo, questa sorta di atteggiamento di Conte, che insomma non è soddisfatto, non è contento, e sembra quasi ti faccia un favore in questo momento ad allenare la nazionale perché non ci sta dentro, Pier. Questo sono d'accordo, questo è non è particolarmente poi piacevole. Autorizza questi discorsi, questo atteggiamento certo, autorizza questi discorsi. Questo non è particolarmente elegante, insomma, il Conte si sente bravo, e quindi si sente una prima scelta per la nazionale. La scelta di Conte, che io ho caldeggiato l'estate scorsa, che mi sembra sia stato comunque un capolavoro di Tavecchio, so che insomma può, tutte le volte che si parla di capolavoro di Tavecchio poi si rischia di dire ma allora non ci dimentichiamo di Primo Pa, benissimo, no, Primo Pa, però secondo me questa operazione è stata fatta molto bene, era il miglior allenatore su piazza, lo sponsor ha pagato buona parte, lo sponsor tutti dicevano che avrebbe spinto per esempio per avere Balotelli, che è il suo testimone al numero uno. Pare che Conte faccia esattamente come gli pare, anzi forse paradossalmente potrebbe averlo danneggiato, proprio perché forse aveva voglia quasi di dare un segnale simbolico da questo punto di vista. Quindi per me la scelta è una scelta buona, non stiamo vedendo un gioco straordinario, se ci risparmia un po' di nervosismo perché i lavori disagiati sono altri, secondo me fa una bella figura. Detto questo, alcune delle polemiche di queste ore, ripeto, sono proprio mal poste, sono sbagliate, perché e io sono sicuro che Conte la pensa così. Io sono sicuro che Conte, se c'è qualcuno che lo critica per la qualità del gioco, lo accetta, certo, perché lo sa benissimo anche lui che questa squadra può fare di più, pur con tutti i limiti tecnici di questa generazione, che non è ovviamente la migliore nella storia del calcio italiano, eppure lui sa benissimo che ci sono grandi margini di miglioramento. Però se poi lo si accusa di cose che non c'entrano nulla, no ma lui ha ragione ad arrabbiarsi, Pier, ma no, ha ragione ad arrabbiarsi, perché ripetiamo, questa polemica è nata sul nulla ed è una questione personale tra due soggetti. Aveste fatto dei carichi di lavoro mostruosi, sai, l'altra sera ho sentito domande in conferenza stampa, appunto, su ogni frase sembrava, anche nell'estratto che abbiamo sentito prima, sì, ogni frase andato. Sembrava, no? Marchise è più importante per la nazionale o per la Juventus? No, erano chiaramente domande tendenziose, volte a battere sul nervo. Pier, ci sentiamo domani. Va bene, ciao. Ci vediamo, ciao Pierluigi Pardo. Ernesto Roma, mi spiace, non riusciamo a parlare perché dobbiamo chiudere il programma. Giorgio Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Bonamici in redazione. Domani alle 2 qui, tutti convocati. Non mi piace sentire fesserie, ecco. Va bene? Grazie.